Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Il giorno dello strappo, l'Italia dei Valori lascia la vigilanza Rai, Veltroni sale al colle da Napolitano, preoccupa il clima politico. Fantozzi e Sabelli preparano la transizione, incontro in attesa del sì al piano, con 100 voli a terra all'Italia aspetta il 1 dicembre. E se in Italia non si vola, la Francia resta a piedi. Dai ferrovieri agli insegnanti, una raffica di scioperi paralizza Parigi. Abbiamo fatto la storia, così il procuratore di Torino Guariniello, il giorno dopo la sentenza sulle morti alla Thyssen. Tra poco l'intervista a Extra Large. Jerry Yang paga il conto, si è dimesso il cofondatore di Yahoo che disse no alla Microsoft. Il cellulare e il computer ce l'hanno a 6 anni, ma i bambini sognano mamma e papà. Il rapporto telefono azzurro racconta i più piccoli del 2008. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Ed Anna Migliorati. Da giorni il tema era in discussione, ora si è consumato lo strappo sulla vigilanza Rai. Gli esponenti dell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando e Francesco Pardi, hanno infatti annunciato le loro dimissioni dalla commissione di vigilanza sulla Rai. Uno strappo istituzionale ma anche politico, perché riguarda i rapporti all'interno dell'opposizione tra Italia dei Valori e Partito Democratico. E il tutto proprio mentre questa mattina a salire al Quirinale è stato il segretario del PD Walter Veltroni, denunciando il deteriorarsi dei rapporti con la maggioranza. Allora, sentiamo come si è sviluppata questa davvero intensa mattina politica. Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Proprio a sorpresa è lo stesso Leoluca Orlando, quindi a bloccare la situazione in commissione di vigilanza Rai, si dimette insieme a Pancio Pardi per denunciare l'inaccettabile mortificazione del Parlamento, e nessun componente dell'Italia dei Valori sarà presente in commissione. Ma sentiamo quello che ha detto poco fa alla conferenza stampa qui a Montecitorio lo stesso Orlando. Comunico infine che ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da componente della Commissione parlamentare di vigilanza, quale mio contributo personale e politico alla denuncia, la più forte possibile, di una inaccettabile mortificazione del Parlamento e di una inaccettabile mortificazione della Commissione di vigilanza chiamata a garantire nel settore radiotelevisivo e con riferimento al servizio pubblico principi di libertà e di pluralismo sanciti dall'articolo 21 della Costituzione. Grazie. Attacca Antonio Di Pietro, Silvio Berlusconi è un corruttore politico, informeremo il Paese di questa deriva democratica. Di Pietro però non rompe con il PD e con Walter Veltroni. Sentiamo Di Pietro. E non cadremo nel tranello di chi, come ho avuto modo di leggere oggi anche su qualificati quotidiani, si aspetta da noi una resa dei conti. La nostra fuoriuscita dalla Commissione di Vigilanza Rai lo facciamo con senso di responsabilità, affinché quella Commissione oggi possa assumersi le responsabilità e le competenze che gli spettano. Deleghiamo al segretario Walter Veltroni il compito di individuare con le altre opposizioni, non con l'Italia dei Valori, perché l'Italia dei Valori non sarà presente alla Commissione di Vigilanza, una soluzione condivisa per l'eventuale presidenza, ben sapendo che se resta l'attuale presidente nominato Villari, egli è il presidente della maggioranza parlamentare, non delle opposizioni. E questa mattina, come avete detto voi, il segretario del Partito Democratico ha incontrato il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Veltroni denuncia la gravità del comportamento di governo e maggioranza nei confronti dell'opposizione e del Partito Democratico, insulti e offese di cui non si ricordano precedenti, tesi a delegittimare il ruolo democratico dell'opposizione. Per la maggioranza invece è Di Pietro ad inquinare il clima con le accuse contro Berlusconi, e devono intervenire le più alte cariche dello Stato. Riguardo la Commissione di Vigilanza Rai non cambia nulla per il Popolo della Libertà, perché il presidente è Villari, e adesso bisognerà proprio vedere cosa farà il senatore del PD, che ieri ha rifiutato di dimettersi dal partito e dalla presidenza della Commissione. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie allora ad Elisabetta Fiorito. Che succederà? Proviamo proprio a capirlo con il nostro Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno. Eccomi, Stefano. Buongiorno. Qual è l'interpretazione che si può dare di quello che è accaduto questa mattina dal punto di vista istituzionale ma anche nei rapporti politici tra maggioranza e opposizione? Sì, ma intanto non capisco cosa potrebbero fare le alte cariche dello Stato invocate da qualche esponente della maggioranza. Questo è un problema politico, è un problema che riguarda soprattutto i rapporti politici all'interno del centro-sinistra e soprattutto il rapporto fra il Partito Democratico e l'Italia dei Valori, che Di Pietro avrebbe cercato di delegittimare, diciamo, la commissione di vigilanza con le dimissioni dei suoi esponenti era abbastanza previsto e prevedibile. Che lo stesso Partito Democratico abbia nei giorni scorsi adombrato le dimissioni, l'abbandono della commissione, si era anche detto, e naturalmente questo fa sì che Di Pietro diventa una volta di più, diciamo, la punta di lancia, l'avanguardia di una posizione che poi diventa anche quella del Partito Democratico, e quindi continua l'operazione da parte di Di Pietro di mettere in difficoltà il Partito Democratico e di costringerlo poi a seguirlo sul piano politico istituzionale. Questo è un problema molto serio per Veltroni, che vede sempre più minata la sua autorità di leader dell'opposizione. Questo è il vero problema, il vero nodo che si sta consumando intorno, in qualche modo, intorno al caso Villari. Certo, grazie a Stefano Folli, e resta ovviamente il problema questione vigilanza RAI, che a questo punto è ancora meno risolto. E in questo clima, con queste notizie politiche che si accavallano, oggi a Roma non c'è il premier Silvio Berlusconi, che è impegnato a Trieste, sta incontrando il cancelliere tedesco Angela Merkel per un vertice appunto italo-tedesco. Al centro di questi colloqui c'è naturalmente la crisi economico-finanziaria, ci saranno anche una serie di incontri con gli imprenditori, ve lo racconteremo naturalmente nel corso della giornata. Domani per l'Italia dovrebbe esserci invece il primo Consiglio dei Ministri per discutere proprio il piano anticrisi italiano. E a Trieste è un fuori programma per stupire, rubare la scena. Silvio Berlusconi, accogliendo Angela Merkel a Trieste, ha rispolverato questa mattina un vecchio gioco che si fa con i neonati. Il Presidente del Consiglio si è nascosto dietro uno dei lampioni della storica piazza triestina, Piazza dell'Unità, sorprendendo la Merkel poi con un cucù, gesto che chi era presente dice che l'austera cancelliera non ha molto gradito. E rimanendo sempre a Trieste, ci sono naturalmente anche i ministri, tra cui quello alle infrastrutture e ai trasporti, Altero Matteoli, che è tornato a parlare di Alitalia e dei partner esteri per la nuova CAI, la compagnia aerea italiana. Per quel che ne so io, ha detto Matteoli, dovrebbe essere interessante, le ipotesi interessanti sono quelle che riguardano Air France, Lufthansa, perché British Airways invece è più tiepida nella trattativa. E per il futuro di Alitalia è davvero ormai conto alla rovescia, 100 voli al giorno cancellati, la compagnia attende di transitare in CAI. Il commissario straordinario di Alitalia, Augusto Fantozzi, sta incontrando l'amministratore delegato di Compagnia Aerea Italiana, Rocco Sabelli. Francesca Malaguti. Sì, buongiorno, è ancora in corso l'incontro tra il commissario straordinario e l'amministratore delegato di CAI, Rocco Sabelli. All'ordine del giorno l'entità dell'offerta in vista della cessione degli asset. Dunque si avvicina il passaggio a CAI. Oggi pomeriggio arriverà sulla scrivania del ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola la perizia di Banca Leonardo, l'advisor del governo, sulla valutazione del prezzo della compagnia. Poi in serata il comitato di sorveglianza sulla procedura commissariale esprimerà un giudizio sull'offerta di CAI. Questo darà al ministro tutti gli elementi per autorizzare il commissario alla vendita di Alitalia. Francesca, questa mattina sei stata anche a Fiumicino, si continua a parlare di voli che non volano, e qual è la situazione, qual era questa mattina al principale aeroporto di Roma? Sì, la situazione era tranquilla, non c'erano lunghe code o bivacchi, anche se evidentemente si trattava di una calma apparente. Le cancellazioni dei voli infatti sono ormai sistematiche, 120 quelle di ieri, una sessantina i voli tolti dall'orario oggi, e Fantozzi ha annunciato: toglieremo 100 voli al giorno da oggi a fine mese, perché lo sciopero dei piloti ci è costato molto. Da Roma è tutto, vi restituisco la linea. Grazie. E se la nuova Alitalia pensa ancora ad Air France, come sentivamo prima, anche la compagnia d'Oltralpe sta passando davvero i suoi guai. Nei giorni scorsi anche gli aerei della compagnia francese sono rimasti a terra per una serie di agitazioni, ed è davvero una raffica di scioperi che sta letteralmente paralizzando la Francia. Allora andiamo a vedere cosa succede oltre Alpe. I treni, gli autobus, le metropolitane, poi toccherà insegnanti e postini. La protesta contro la riforma delle pensioni blocca la Francia. Il governo Sarkozy prevede l'innalzamento dei contributi per andare in pensione dai 37 anni e mezzo attuali ai 40, ma la gente non ci sta. Poi ci sono singole rivendicazioni di categoria, ad esempio venerdì, sabato e domenica si fermano i macchinisti ferrovieri che si oppongono al progetto di riorganizzazione del lavoro nel trasporto merci. Già oggi però i ferrovieri francesi bloccano il traffico e il paese perché contrari alla riforma delle pensioni prevista per la categoria. Lo sciopero è stato convocato da 8 sigle sindacali unite per la prima volta dopo anni. Giovedì gli insegnanti francesi dalla scuola materna all'università scendono in piazza per protestare contro la soppressione di migliaia di posti. Parigi è paralizzata tra manifestazioni, ne sono attese 60 e macchine che tentano di entrare. Questa mattina c'erano 165 chilometri di coda nelle strade d'accesso alla capitale, il doppio del normale. Il governo Sarkozy dice di essere in ascolto della piazza, ma che non cambierà idea. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E il tema delle pensioni, dell'innalzamento dei contributi fino a 40 anni è quello che agita la protesta in queste ore in Francia ed è un tema su cui in passato tra l'altro sono caduti anche dei governi. Cercheremo di capire quali margini di trattativa ci sono in Francia tra il governo e il presidente Sarkozy e le sigle sindacali che protestano, collegandoci con il nostro Attilio Geroni. In questo momento però non riusciamo a raggiungerlo, direi che possiamo andare avanti, Anna, con le altre notizie se il collegamento con Geroni è raggiungibile. Benissimo. Attilio, ecco, buongiorno. Anche qualche problema telefonico certo. Con la Francia, giusto? Il nostro corrispondente da Parigi. Ciao Attilio. Dunque, cercavamo di capire, te lo chiediamo, ci sono dei margini perché la trattativa riprenda e si arrivi a una soluzione su questo nodo caldissimo delle pensioni in Francia, Attilio? La situazione è peggiorata da quando il governo, anzi il Senato, è stato introdotto un emendamento che più che riguardare la legge sulle pensioni riguarda la possibilità per i lavoratori di lavorare, di raggiungere proprio l'età pensionabile non più a 65 ma a 70 anni. Si tratta di una possibilità e quindi una cosa che il lavoratore può o non può accettare, ma è all'origine del malumore attuale, è all'origine lo stesso dello sciopero che si è avuto con Air France e che ha paralizzato il traffico aereo in Francia per 4 giorni. Quindi è questo il nuovo salto di qualità, se così possiamo dire, in negativo della tensione sociale in Francia dopo che si è fatta strada quest'idea di portare a 70 anni l'età pensionabile, e quindi mentre da 60 a 65 invece per i piloti. Un po' questo è lo spirito che anima le proteste di questi giorni, almeno nei trasporti pubblici, mentre per quanto riguarda lo sciopero delle poste è legato essenzialmente al progetto che il governo aveva alcuni mesi fa, quello di privatizzare e di aprire il capitale delle poste, però va detto che questo è un progetto che ormai, data l'attuale crisi economica, è in stand-by e non credo che il governo in questa fase vorrà aprire un altro fronte con la privatizzazione delle poste. Grazie a Attilio Geroni per questo racconto della situazione francese. E in Italia a riaprirsi ancora una volta anche quest'anno è un altro fronte. A rischio c'è un appuntamento storico, la prima del Teatro alla Scala a Milano il 7 dicembre prossimo. Anche qui il tema in qualche modo è la mancanza di fondi, perché si parla di contratto integrativo. Sentiamo allora cosa succede. Clima pesante alla Scala di Milano. Tra i timori dei possibili tagli ai fondi statali e le agitazioni sindacali che mettono in forse l'inaugurazione della nuova stagione con il Don Carlo di Verdi. Il Consiglio d'amministrazione appoggia il sovrintendente Stéphane Lissner in forte contrasto con il FIALS, il sindacato autonomo a cui sono iscritti buona parte degli orchestrali e del coro, nell'avvertenza sul contratto integrativo. Contratto che è stato firmato dai sindacati confederali e non dal FIALS perché dal suo punto di vista è peggiorativo per le masse artistiche della Scala. Il contratto integrativo, in precedenza sottoposto a referendum di tutti i lavoratori del prestigioso teatro milanese, ha visto la maggioranza favorevole a sottoscriverlo. Il professore d'orchestra Giuseppe Nastasi, delegato FIALS della Scala di Milano. E la maggioranza dei lavoratori che hanno votato al referendum poco hanno a che fare con l'argomento cessione dei diritti. La questione riguarda un aspetto molto preciso, cioè non è che noi stiamo qui a dire che vogliamo essere pagati di più, noi vogliamo essere pagati il giusto, e se c'è un qualcosa che riguarda un diritto diritto sancito dalla legge, che è appunto il diritto all'equo compenso, che è irrinunciabile tra l'altro per la cessione dei diritti connessi. Io dico alla fondazione che se ne mi chiede di poter riprendere con la televisione tutte le opere della stagione, bisogna attenersi a quelli che sono gli accordi preesistenti. Nel frattempo il CDA della Scala, che ha confermato la fiducia a Stéphane Lissner, il quale resterà in carica come sovrintendente almeno fino al 2013, ha ribadito la linea dell'inflessibilità, giudicando definitivamente chiusa la vertenza. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Le notizie di oggi. Lo strappo dell'Italia dei Valori alla Commissione di Vigilanza Rai. Si dimettono Leo Luca Orlando e Francesco Pardi. Parlamento mortificato. Contro di noi dicono un veto inaccettabile del Presidente del Consiglio. Intanto il PD sale al colle da Napolitano e denuncia il clima politico pesante. Berlusconi a Trieste intanto incontra il cancelliere tedesco Angela Merkel e scherzando le fa cucù. In Europa si cerca la via contro la crisi. Domani per l'Italia primo Consiglio dei Ministri per il pacchetto di Natale. Lascia l'amministratore delegato del colosso informatico Yahoo, Jerry Yang. Le dimissioni arrivano in seguito alle critiche degli azionisti per il suo no alla mega offerta di Microsoft. Abbiamo fatto la storia, così il procuratore di Torino Guariniello il giorno dopo la sentenza sulle morti alla Thyssen. L'abbiamo intervistato a Extra Large. E infatti ieri il giudice di Torino ha deciso di rinviare a giudizio 6 persone per la tragedia avvenuta alla ThyssenKrupp quando un incendio, ricorderete, nella notte tra il 5 e 6 dicembre dell'anno scorso divampò nella fabbrica di acciaio torinese uccidendo 7 operai. Per l'amministratore delegato Harald Hespenheim il rinvio a giudizio è con il capo d'accusa di omicidio volontario colposo per gli altri 5 imputati. Una decisione che non ha precedenti. Paolo Piacenza ha intervistato il procuratore di Torino, Raffaele Guariniello. La pagina più importante nella storia della giurisprudenza in tema di sicurezza del lavoro. Abbiamo scritto una pagina che non era mai stata scritta in passato, è la prima volta nel mondo e nella storia che si fa un rinvio a giudizio, non una sentenza di condanna, un rinvio a giudizio, però è la prima volta per un omicidio doloso, sia pure con dolo eventuale, e questa è una indicazione preziosa sia per il caso specifico, ma anche al di là del caso specifico, debba essere un tema di tutela della sicurezza del lavoro, cioè è un'indicazione che sarà importante per tutti, per gli operatori, per le aziende, per gli ispettori. Ci può essere anche l'omicidio doloso in tema di sicurezza del lavoro. Il processo si aprirà il 15 di gennaio a Torino, il fattore tempo è sempre stato considerato importante dalla Procura. Se noi riflettiamo che la tragedia del 7 dicembre siamo arrivati al rinvio a giudizio a nemmeno un anno di distanza e arriviamo all'inizio del dibattimento poco dopo un anno, e questo è anche un ulteriore elemento di grande importanza, ecco, su quello che può essere, potrebbe essere l'intervento della magistratura, e come è sperabile che diventi un intervento della magistratura in tutti i casi che riguardano la sicurezza del lavoro. Del resto, in aderenza anche a quell'ultima legge, no, in materia di pubblica sicurezza che è stata varata dal nostro Parlamento nell'agosto del 2008, che impone una fissazione urgente, una priorità assoluta nella trattazione dei processi relativi a reati in materia di sicurezza del lavoro. Purtroppo il rinvio a giudizio per il caso Thyssen è arrivato nel giorno in cui si è verificato un altro terribile incidente a Sasso Marconi. Ci sono molte polemiche sull'applicazione delle norme per la sicurezza. Qual è la sua valutazione? La mia valutazione è questa, che noi abbiamo ottime leggi, sono sempre migliori, sempre più lungimiranti, però abbiamo un grande problema di applicazione concreta delle leggi. c'è un problema di organi di vigilanza che debbono essere ulteriormente potenziati e arricchiti, c'è un problema anche di intervento della magistratura che deve essere ulteriormente potenziato. Purtroppo ci sono gravi carenze negli interventi degli organi di vigilanza e negli interventi della magistratura. I processi in alcune zone del nostro paese in materia di sicurezza del lavoro proprio non si fanno, in altre zone si fanno però con una tale lentezza che poi si sfiora la prescrizione del reato. E questo genera un inquietante senso di impunità. E come ricordava lo stesso Guariniello al microfono del nostro Paolo Piacenza, ieri c'è stata un'altra tragedia sul lavoro, due morti a Sasso Marconi nell'esplosione di una fabbrica della gomma. Mai incidenti gravi. Lamentele sì, come racconta una signora che abita proprio di fronte alla fabbrica. C'erano giorni in cui non si respirava, dice. Si alzavano nuvole nere che coprivano tutto. Lo stabilimento, apprendiamo, aveva al momento difficoltà economiche. Si parlava di cassa integrazione e di un trasferimento di sede a Vado, proprio a causa di quelle lamentele. Eppure la Marconi Gomma di Sasso Marconi era un'azienda sicura, anche a detta dei sindacati. Al di là dei pericoli che la produzione di mescole per pneumatici porta con sé, non c'erano segnalazioni sulla sicurezza, assicura Marinella Goldoni della Filcem CGL. Collegandosi al sito in internet si ha la conferma. È un'azienda certificata ISO 9001-2000. Marconi Gomma Group è divisa in due, Marconi Rubber e Special. Alla Rubber lavorano una cinquantina di dipendenti, la metà stranieri, perfettamente integrati, non solo operai, anche responsabili di reparto. Direttore generale si legge Iader Righetti, direttore tecnico commerciale Fabio Costanzi. Una stretta al cuore, una delle due vittime di ieri. Zamir Dervisci, albanese, da 15 anni dipendente alla Marconi Gomma, è il responsabile per la sicurezza dello stabilimento. Un minuto prima dell'esplosione era con le due vittime, racconta in lacrime. Esplosa una mescola nuova, a fine lavoro, all'ultima carica di materiale, l'undicesima della giornata. Seguiva questo nuovo prodotto il direttore, chiarisce Zamir. Per questo Costanzi era vicino alla macchina. Di solito lui stava nell'altro stabilimento, la Marconi Special, dall'altra parte della strada. Oggi, nel primo giorno di lutto, scene purtroppo già viste. Sciopero e assemblea nello stabilimento sotto sequestro da parte della magistratura. Anna Rita Lambrosio, GR24, Il Sole 24 Ore. E noi con un balzo cambiamo argomento, cambiamo davvero anche luogo, andiamo in Marocco dove si sta celebrando l'ottava edizione del Festival Internazionale del Film di Marrakech. Marta Cagnola nei giorni scorsi è andata a curiosare per noi cosa stava succedendo e ha incontrato la prima grande star ospite della manifestazione. Il suo arrivo a Marrakech ha suscitato un'ovazione. È stata la prima attrice a recitare come protagonista in un film di fantascienza e una delle poche ad essere candidata al premio Oscar per un film fantascientifico. Sigourney Weaver è amatissima dai tempi di Ripley in Alien di Ridley Scott. If they find what they're looking for out there, that means we get full chance. Don't worry, Parker. Yeah, you'll get whatever's coming to you. Breath. You're guaranteed by law to get a share. A 59 anni compiuti è bellissima, disponibile, intelligente. You know, to me I believe that films send international messages. Penso che i film mandino messaggi universali, possono ispirare il pubblico, dice. E per me, che ho sempre interpretato ruoli di donne fortissime, è un grande onore essere festeggiata qui, in un paese dalla cultura così diversa dalla nostra. You two go down, get all the coolant you can carry. I'll get the shuttle ready. I'll give you about 7 minutes. In Marocco Sigourney Weaver ha parlato molto del suo paese, lei che per Barack Obama ha fatto proprio campagna elettorale. I was actually going from door to door in Pennsylvania. And talking to people about Obama and, ho fatto una campagna porta a porta in Pennsylvania parlando di lui alla gente. Credo che sia completo, calmo, attento ai nostri problemi, spiega, e racconta che i nuovi tempi americani avranno grande influenza anche su Hollywood. We've just had a year where we've had such Nell'ultimo anno abbiamo avuto donne interessantissime sotto i riflettori. Hillary Clinton, forte, tenace, affascinante. Sarah Palin, magari un po' matta, ma ugualmente molto affascinante. E con Barack Obama vivremo un periodo più sensibile e ottimista, con film che parleranno più di gente normale e non di supereroi. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:33 minuti e 30 secondi. Le notizie di oggi extra large. Lo strappo dell'Italia dei Valori alla commissione di vigilanza Rai. Si dimettono Leo Luca Orlando e Francesco Pardi. Parlamento mortificato, contro di noi dicono un veto inaccettabile del Presidente del Consiglio. Intanto il Partito Democratico sale al colle da Napolitano e denuncia il clima politico pesante. Berlusconi è a Trieste intanto, dove ha incontrato il cancelliere tedesco Angela Merkel. Scherzando le ha fatto cucù. In Europa si cerca la via contro la crisi. Domani per l'Italia primo consiglio dei ministri per il pacchetto di Natale. Lascia l'amministratore delegato del colosso informatico Yahoo, Jerry Yang. Le dimissioni arrivano dopo le critiche degli azionisti per il suo no alla mega offerta di Microsoft. Un'altra giornata cruciale oggi per l'Italia. In corso da ore l'incontro tra il commissario Fantozzi e l'amministratore delegato di CAI, Rocco Sabelli. Ancora molti gli aerei a terra. Hillary Obama sempre più vicini, la Clinton sarebbe ormai prossima al ruolo di segretario di Stato. Bambini sempre più soli, i ragazzi del computer e del cellulare sognano mamma e papà, racconta il rapporto telefono Azzurro 2008. L'industria dell'auto è stato uno dei più grandi pilastri dell'economia americana, tanto che una sua variazione incide direttamente sul PIL del paese. Comincia così il video diffuso su YouTube dalla General Motors di Detroit, una delle tre grandi sorelle dell'auto americana, per spiegare ai cittadini i rischi legati alla crisi del settore, in attesa che il Congresso sblocchi eventuali aiuti per il settore dell'auto in netta difficoltà. E quella che avete sentito è il sonoro del video. E come sappiamo però restano nell'occhio del ciclone le banche soprattutto. Ieri l'annuncio shock di Citigroup che ha previsto il taglio di 53.000 posti di lavoro. Alessandro Plateroti, caporedattore di Finanza del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Cerchiamo di capire che sta succedendo. Insomma, banche davvero nell'occhio del ciclone, questo annuncio è davvero pesante per Citigroup. Eh sì, avete fatto un accostamento giusto. Automobili e banche in questo momento sono i due settori che più preoccupano l'opinione pubblica americana, più preoccupano soprattutto l'economia mondiale. Solo una piccola parentesi per quanto riguarda l'auto, c'è un fattore curioso che è un po', diciamo, il video della General Motors è di grande impatto emotivo sicuramente, però d'altra parte bisogna ricordare che la metà o forse adesso anche qualcosa di più della produzione americana di automobili è fatta da società straniere, quindi è vero che la GM lancia questo appello aiutateci e salvateci, ma in realtà le resistenze che ci sono anche politiche, perché più della metà della produzione la fanno Toyota, Honda, BMW e le altre case straniere che operano negli Stati Uniti. Per le banche, la situazione delle banche è sicuramente tesa. Citigroup è un po' lo specchio della crisi che in questo momento attraversa il sistema bancario e finanziario americano, una crisi che ha già provocato più di 70.000 licenziamenti a livello complessivo, e ora ecco arrivare ieri questa ennesima conferma delle difficoltà, 50.000 licenziamenti, l'obiettivo della banca è di portare a 300.000 il totale degli addetti dei 352.000 attuali. Come farlo? Questo resta un po' un punto interrogativo. Ieri l'amministratore delegato del Vikram Pandit di Citigroup non lo ha specificato, ma qual è l'attesa? L'attesa è che gran parte dei tagli avvenga fuori degli Stati Uniti, e questo ci porta a una riflessione. Essere aiutati dallo Stato, Citigroup ha preso 25 miliardi di dollari di aiuti pubblici in questi ultimi mesi, ha anche un prezzo, e uno di questi prezzi è un po' un ripiegamento sul territorio nazionale. Difesa di se stessi. È una ovviamente. Difesa, diciamo così, quando si prende denaro pubblico si cerca anche di restituire al contribuente quello o difendere l'occupazione in casa. Alessandro, i tagli nel settore bancario, nel settore finanziario, sono secondo te solo effetto della recessione o segno comunque di un ritorno ad un'economia che in Italia diremmo manifatturiera del prodotto anche per gli Stati Uniti? Ma non credo che sia così, immagino, possiamo dire più semplicemente che c'è un insieme di fattori. Sicuramente la recessione incide la caduta di un certo tipo di finanza, quella più strutturata, quella dove prevaleva l'ingegneria finanziaria, quindi quella dei derivati, dell'investment banking, anche che in questo momento è in difficoltà. Quasi tutte le banche del mondo hanno ridotto gli organici della divisione investment banking e mercato dei capitali, sicuramente anche questo incide, quindi mutamento strutturale dell'industria dei servizi bancari, recessione che fa cadere molte attività nel settore bancario, ma come abbiamo detto anche licenziamenti all'estero per tornare a potenziare e soprattutto a rafforzare e a supportare le industrie nazionali. Il messaggio che viene dalla politica oggi è questo: denaro sì, ma anche aiuto alle imprese nazionali. Grazie. Focalizzarsi dunque sul territorio nazionale. Grazie Alessandro Plateroti. Grazie per essere stato con noi. E noi c'è un altro capitolo che è in America, americano, sì. Ed è internet. E riguarda il colosso informatico Yahoo con le dimissioni naturalmente del numero uno. Sentiamo. 6 mesi fa il rifiuto della maxi offerta di Microsoft, ora le dimissioni. C'è una causa precisa per il terremoto al vertice di Yahoo, il più noto portale internet mondiale, che ha portato il cofondatore e amministratore delegato della società Jerry Yang a lasciare la sua poltrona. Yang, 40 anni, tornerà al suo vecchio ruolo di direttore della strategia e della tecnologia, resterà nel consiglio di amministrazione ma non sarà più il numero uno. La sua determinazione nel conservare una totale libertà di movimento, vincente per anni, è culminata nel rifiuto dell'offerta da 47 miliardi e mezzo di dollari del gigante del software, si è rivelata alla fine una scelta carica di insidie che ha minato la forza finanziaria di Yahoo. Dal picco massimo di $30, Microsoft ne aveva offerti 33, il valore delle azioni è rotolato fino ai 10 della chiusura di ieri. Con la partenza di Yang, gli analisti già scommettono su una grossa ristrutturazione dell'azienda che potrebbe alla fine culminare proprio nella vendita al colosso di Redmond. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E c'è una notizia dell'ultima ora. Ricorderete la vicenda della super petroliera saudita sequestrata nei giorni scorsi da pirati somali e per la quale c'erano diverse trattative. Ebbene, sarebbe ora all'ancora al largo di un porto somalo poco a nord di Mogadiscio. L'annuncio poco fa, da capire cosa stia accadendo. Siamo all'estero e ci restiamo con la nostra Giulia Crivelli. Buongiorno. Buongiorno. Naturalmente il nostro sguardo sui giornali internazionali. Giulia, vogliamo cominciare con la Spagna, alle prese con problemi di memoria che attanagliano spesso l'Italia, ma evidentemente non siamo i soli, anzi. Sì, e qui tra l'altro la notizia proprio dell'ultima ora che viene ripresa da tutti i siti online, da abc.es, elpais.es, quindi le versioni online dei principali quotidiani, è che quel giudice Baltasar Garzón, noto anche in Italia perché aveva intrapreso quella causa su Telecinco, che era il braccio spagnolo di Mediaset, ha dichiarato estinta la responsabilità di Franco e degli altri mandanti di alcuni omicidi commessi durante il periodo di dittatura del generale Franco e anche subito dopo. Questo è sicuramente un passo verso forse quella riconciliazione finale, proprio in questi giorni poi che si celebrano alcune date importanti, forse un segnale importante per un paese che finalmente potrebbe appunto riconciliarsi, magari chiudere definitivamente quel periodo buio del passato. Un flash, la notizia arriva da Londra ma ancora una volta ci riporta negli Stati Uniti. Sì, il Guardian invece in prima pagina ha questa, il Guardian dà per certa una cosa che molti altri danno ancora per possibile, che è la scelta di Hillary come segretario di Stato. Il problema in questo caso per Hillary potrebbe essere suo marito, nel senso che, e qui viene un'altra lezione di democrazia dagli Stati Uniti, esiste un conflitto di interessi perché la fondazione di Bill Clinton si regge su donazioni che vengono anche da molte personalità straniere. Siccome il segretario di Stato è una sorta di ministro degli esteri, anzi è l'equivalente del nostro ministro degli esteri, ovviamente deve essere il più possibile libero di criticare o elogiare chiunque, non devono esserci ombre sui motivi che lo spingono verso un capo di Stato piuttosto che un altro. Nel caso di Hillary, per via di Bill, questo potrebbe non essere così trasparente e quindi lo scrutinio che ci sarà di tutte queste, della fondazione di Bill Clinton, è evidente, forse si legge soprattutto sui giornali americani, questo potrebbe costare a Hillary questo possibile posto di segretario di Stato, ma è quasi certo che comunque Hillary avrà un altro posto nell'amministrazione Obama. Grazie Giulia Crivelli. C'è invece una notizia, Anna, che ci riporta immediatamente in Italia. Notizia dell'ultima ora: ingresso limitati di stranieri e solo per colf e badanti, non più per la produzione industriale o l'edilizia. Parole poco fa del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi. Sacconi stava commentando la posizione che definisce coraggiosa della CGIL di Treviso, che ha chiesto il blocco dei flussi, di cui ampiamente abbiamo parlato questa mattina anche a Radio 24, io a viva voce con Alessandro Milan. Io e il ministro Maroni, le parole poco fa di Sacconi, intendiamo disporre un numero limitato di ingressi soltanto per coloro che presentano un contratto di collaborazione solo con le famiglie. E ora invece un momento di relax, spazio ai libri con la nostra Alessandra Tedesco. Manuale di sopravvivenza del padre contemporaneo, scritto da Gianni Biondillo e Severino Colombo, pubblicato da Guanda. Biondillo, com'è nata l'idea di questo libro? Eravamo un giorno ai giardinetti pubblici, io e Severino, e mentre si spingeva l'altalena chi ha suo figlio, chi ha sua figlia, ci siamo guardati attorno e ci siamo resi conto che eravamo gli unici padri. Ci siamo resi conto che c'era bisogno di una dichiarazione di consapevolezza dei nuovi padri. Severino Colombo, in che cosa consiste questo libro? È un manuale per i padri o è un'analisi sul ruolo di padre? È un manuale, ma non va nel reparto puericultura delle librerie. È una sorta di divertissement, fatto di diversi corpi. Al suo interno c'è una parte di diario in cui Gianni racconta in maniera molto divertita le sue disavventure quotidiane, c'è una parte a cui abbiamo lavorato insieme in cui si forniscono una serie di strumenti operativi, insomma, come cambiare il pannolino, perché, con che filosofia, con che spirito. Ci siamo inventati un apparato di documenti che supportano l'idea di questa nuova figura emergente del padre contemporaneo. Biondillo, quando si parla spesso di padri che fanno i padri si usa quel termine per me terribile, ma tu cosa ne pensi? No, qui bisogna stare molto attenti. Il patrè non è il mammo. Noi non vogliamo allattare al seno i nostri figli. Siamo molto coscienti del fatto che c'è un padre e c'è una madre. Quello che noi diciamo è che c'è un padre che per una volta tanto non è quel padre autoritario che era la figura paterna, forse che era precedente alla nostra, ma è un padre che vuole essere magari autorevole, che vuole condividere con sua moglie o con la sua compagna anche il piacere dell'affettività nei confronti dei figli. Domanda tandem per entrambi dunque. Un consiglio da dare ai padri. Cambiate i pannolini. Cambiateli tante volte. No, ma sembra una stupidaggine, ma è una cosa molto seria, perché se tu cambi il pannolino a tuo figlio, poi quando sarà grande potrai anche decidere in quale università mandarlo. Se fai fare tutto a tua moglie, poi lei ha tutto il diritto di scegliere per te. 13:46 minuti, GR24 Extra Large. È strappo. Il Partito Democratico sale al colle da Napolitano e denuncia il clima politico pesante. L'Italia dei Valori lascia la commissione di vigilanza Rai. Si dimettono Leo Luca Orlando e Francesco Pardi. Parlamento mortificato, contro di noi, dicono, un veto inaccettabile del Presidente del Consiglio. E Berlusconi a Trieste sta incontrando in questi minuti il cancelliere tedesco Angela Merkel. In Europa si cerca la via contro la crisi. Domani per l'Italia primo Consiglio dei Ministri per il pacchetto di Natale. Lascia l'amministratore delegato del colosso informatico americano Yahoo, Jerry Yang. Le dimissioni arrivano in seguito alle critiche degli azionisti per il suo no alla mega offerta di Microsoft. Il cellulare e il computer ce l'hanno già. Cosa sognano i bambini del 2008? Mamma e papà. Chi non beve o non si sballa è fuori dal coro. Così vedono il mondo gli adolescenti italiani. Hanno il telefonino anche prima dei 6 anni, pensate. Il bullismo è un'emergenza, ne è vittima 1 su 4. Della famiglia invece hanno una visione molto tradizionale. Come sono insomma i ragazzi italiani del 2008, i più piccoli e i più grandicelli? Lo fotografa il rapporto Eurispes Telefono Azzurro. Bambini e ragazzi sempre più soli, che hanno paura di essere rapiti o violentati e passano sempre più tempo davanti al PC o col telefonino. Divertimento fa rima con sballo, aumenta il bullismo e 1 su 2 non vede il suo futuro. Per loro gli adulti sono assenti e impreparati, spiega il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo. Il mondo degli adulti lo vediamo fortemente lontano e non all'altezza molte volte di quelle esigenze che i ragazzi richiedono. I bambini vedono i genitori lontani, incapaci, incompetenti, soprattutto sulle aree in cui vedono invece un bisogno di averli accanto. Tra i 9 e gli 11 anni si impara a navigare, il cellulare arriva tra gli 8 e i 9 anni. Per quanto riguarda l'integrazione invece sono meglio degli adulti. Tra alunni italiani e stranieri l'amicizia è il legame prevalente. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di infanzia rubata parla anche la nostra finestra di oggi sul mondo arabo. Cut. caccia ai trafficanti di organi umani. Con questo titolo in prima pagina, il quotidiano egiziano Al-Ahram riporta la risposta del governo del Cairo allo scandalo suscitato da un giornale locale che due giorni fa aveva denunciato con testimonianze video al confine dell'orrore di sei minorenni che hanno venduto i loro reni e cornea in cambio di pochi soldi per giunta falsi. A provocare ulteriore indignazione era che le operazioni venivano eseguite in ospedali pubblici da medici senza scrupolo pagati dalla mafia locale. Ieri il ministro della Sanità ha convocato la stampa per annunciare la sospensione della licenza d'esercizio di due strutture pubbliche, l'arresto di una dottoressa che aveva asportato illegalmente tre fegati di adolescenti locali, uno di loro morto sotto i ferri, per trapiantarli in altrettanti cittadini stranieri, caccia ai sanitari fuggiti con le cartelle mediche. In Egitto un quarto della popolazione è sotto la soglia della povertà e 2 milioni di minori sono in strada, senza famiglia. Rajiv Fatahali, GR24, Sole 24 Ore. E l'infanzia non è davvero tutta così, diciamo, per fortuna. Da 80 anni a portare un sorriso ai più piccoli, ma anche ai grandi, c'è un personaggio che proprio oggi ha raggiunto la veneranda età che non dimostra. Sono queste le note che accompagnavano il filmato della prima uscita di Topolino sulla scena dei fumetti animati. Era il 18 novembre di 80 anni fa, appunto il 1928. Le tavole disegnate da Walt Disney e animate da Ubi Iwerks vennero presentate per la prima volta al mondo. Gli inizi raccontano di un topolino diverso da quello divenuto famoso, più dispettoso e donnaiolo, ma successivamente il topo più amato del mondo incarnerà il classico sogno americano sotto molti aspetti. Presuntuoso, saccente, ma certamente buono, Topolino contribuirà tra l'altro a risollevare il morale degli americani alle prese con la Grande Depressione. Era, dicevamo, il 18 novembre 1928, poco dopo sarebbe arrivato quel terribile 1929. Questa è la musica che potete, il video invece lo potete trovare sul nostro sito radio24.it. Restiamo in tema, se vogliamo ridere in tempo di crisi, è possibile anche oggi, per esempio da noi. Paolo Panceri l'ha chiesto ad Alessandra Faiella, autrice e attrice di Zelig, Mai dire domenica e Marchette. Io credo che in questo momento la comicità sia un pochettino in crisi, non tantissimo, perché in tutti i momenti di recessione, di crisi economica, cui la gente si sente un po' smarrita, un po' in ansia, tutto sommato il comico funziona sempre come anche momento liberatorio, di svago, di una risata che può far dimenticare i problemi. Credo però che si sia abusato un po' troppo ultimamente della comicità, i programmi comici hanno cominciato a dilagare verso gli anni 80-90 e si è assistita a un'escalation, per cui abbiamo 15 programmi comici all'anno su tutte le reti, tutti che fanno programmi comici, imitatori. Veramente credo ci sia un po' un'inflazione. Il mio timore è che si vada un po' verso una crisi, proprio per eccesso di, cioè, una risata vi seppellirà, ma sta seppellendo i poveri comici. Alessandra Faiella è tra i comici entrati di diritto tra gli oltre 500 che hanno calcato le scene di teatri e palcoscenici televisivi dalla fine dell'Ottocento ai nostri giorni, protagonisti anche del nuovo dizionario dei comici e del cabaret realizzato da Gian Gilberto Monti, chansonnier e attore della scena milanese. E ci sono in questo dizionario dei comici le star più celebri, ma anche molti nomi dimenticati, nomi e volti dimenticati, spalle, caratteristiche hanno arricchito il repertorio comico italiano. Allora sentiamo Gian Gilberto Monti al microfono del nostro Paolo Panceri. Il dizionario è assolutamente identico a qualunque altro dizionario o garzantina. La differenza è che da una parte lo stile di ogni scheda non è uno stile compilativo, è uno stile più letterario, più di racconto, più di passioni, più di aneddoti, ma quindi c'è un affetto maggiore, mettiamola così. La comicità televisiva è a volte profondamente diversa dalla comicità che si ritrova nei teatri o nei cabaret d'assalto, come li chiamo io, o nelle piccole pedane. Certo è che, per esempio, il fenomeno dello Zelig, quando è nato in televisione, aveva una carica trasgressiva che oggi non ha più, mentre invece la stessa carica si ritrova in fenomeni più nuovi, di laboratori piuttosto che di ricerche, di singoli gruppi. Il giorno dello strappo l'Italia dei Valori lascia la vigilanza Rai. Veltroni sale al colle da Napolitano, preoccupa il clima politico. Berlusconi intanto a Trieste, dove sta incontrando il cancelliere tedesco Angela Merkel. Scherzando le fa cucù. In Europa si cerca la via contro la crisi. L'Italia è ferma con 100 voli a terra anche oggi e la Francia anche resta a piedi. Dai ferrovieri agli insegnanti, una raffica di scioperi paralizza Parigi. Abbiamo fatto la storia, così il procuratore di Torino Guariniello, il giorno dopo la sentenza sulle morte alla Thyssen, intervistato a Extra Large. Jerry Yang paga il conto, si è dimesso il cofondatore di Yahoo che disse no alla mega offerta di Microsoft. Il cellulare e il computer ce l'hanno a 6 anni, ma i bambini sognano mamma e papà. Il rapporto telefono azzurro racconta così i più piccoli del 2008. Jerex Alarge, Alessio Maurizi, Anna Migliorati in studio. È tutto per questa edizione. Il coordinamento di Daniele Biacchessi, regia Peter Bescapè. Extra Large, @radio24.it. Io vi ricordo ancora una volta il nostro indirizzo mail se volete scriverci. L'appuntamento con Extra Large è per domani a partire dalle 13. GR24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.